Se posso riassumere le questioni principali, la prima, noi abbiamo un sistema sanitario pubblico regionale che è in grado di arrivare persino a 45.000 vaccinati al giorno. Ciò vorrebbe dire, fate i calcoli da soli, che noi siamo in grado entro l'estate di vaccinare tutti quanti se le dosi ci fossero. Dopodiché bisogna evitare di illudere la popolazione e dire che siamo in grado di fare tutto quello che serve rispetto a tutte le dosi che arriveranno. Pare che ritardi accumulati comincino in parte a essere ridotti. Sappiamo di vaccini, come sapete voi, che una volta ottenuta l'autorizzazione, prima di EMA, cioè a livello europeo, poi di Alfa a livello nazionale, potranno ulteriormente essere messi a disposizione dei territori. Abbiamo fatto un accordo a livello nazionale tra regioni e governo e struttura commissariale sul fatto, ad esempio, che in questa prima fase, più che sulla percentuale di popolazione residente, venga data sulla percentuale di coloro che hanno diritto ad avere il vaccino. Cioè, se gli ultra ottantenni sono un po' di più sulla popolazione residente in una regione piuttosto che in un'altra, bisogna vaccinare quelli lì, e quindi qualche regione potrebbe avere qualche dose in più rispetto a qualcun'altra, come è avvenuto ad esempio per i degenti delle residenze anziani o il personale che ci lavora, perché non in tutta Italia il numero di strutture di quel tipo ha la stessa diffusione. Ringrazio tutti gli operatori di questa regione che si sono adoperati, si stanno adoperando e che hanno dimostrato che quando in pochi giorni arrivavano i vaccini, ricorderete che in 48 ore da 1.000 vaccinati siamo passati a oltre 10.000. Poi abbiamo dovuto fermarci perché più di così non sapevamo chi vaccinare non avendo le dosi. Quindi il piano che viene presentato è un piano flessibile che dimostra come siamo in grado di reggere l'urto in senso positivo rispetto al massimo di dosi che arriveranno, e ci auguriamo ne arrivino il più possibile. Però proviamo a dire cose anche che possono andare a dare un po' di fiducia ai cittadini. Noi adesso siamo ancora nella fase di preoccupazione. Un po' i contagi stanno tornando ad aumentare in parecchie parti d'Italia. Avete visto cosa sta succedendo in Europa? C'è tutto il tema delle cosiddette varianti. Però è vero che se noi nel giro di alcune settimane, e avete visto a marzo, noi avremo completato già oltre 500.000 di persone vaccinate, che vuol dire più di 1.000.000 di dosi, perché quando si parla di dosi, ricordare sempre che ne servono due almeno per i vaccini oggi in circolazione per quelle case produttrici, per le autorizzazioni che hanno avuto, e si è immunizzati per la gran parte pochi giorni dopo la seconda dose che arriva. Ora, già il fatto di mettere al riparo entro poche settimane oltre 500.000 di persone che sono gli ultra ottantenni e quella categoria più a rischio di tutte, quella che lavora negli ospedali, compresi i lavoratori che non sono del sistema sanitario ma che vanno negli ospedali, ad esempio, a fare le pulizie, tutta la parte di personale sanitario e quello che lavora nelle residenze anziani, comincia a dirci che il rischio di ricoveri, contagi e peggio di decessi comincerà a diminuire parecchio. E se la seconda fase, che inizierà marzo-aprile e che riguarderà comunque popolazione anziana, altre categorie di lavoratori a rischio, ci permetterà di avere un numero così rilevante come quelli che venivano descritti, beh, vorrà dire che ridurrà tantissimo il numero, ad esempio, di ricoverati nelle terapie intensive, nei reparti Covid, meno diffusione di contagio. E voi sapete che oggi si diventa zona arancione o rossa, se non gialla o in futuro bianca, a seconda di 21 parametri nei quali molto incidenti sono la trasmissione del contagio, il famoso R con T, il numero di ricoveri nelle terapie intensive, il numero di ricoveri nei reparti Covid. Io credo che il lavoro che presentiamo oggi dia il segno di una serietà che, più che promesse e annunci, dà l'idea di quello che siamo in grado di fare, cioè tantissimo. Ma non dipende tutto da noi. Ho sempre detto che dipende da il governo, l'Europa, eccetera, cioè chi ha firmato i contratti, farci arrivare le dosi e distribuirle. Tocca a noi, per non dar sempre la colpa a qualcun altro, che è lo sport nazionale più praticato in questo paese, tocca a noi dopo però essere in grado di dimostrare, e noi lo stiamo dimostrando, che una volta che arrivano le dosi, noi abbiamo un'organizzazione oliata, capace, efficiente.